Tempo di Sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Giorgio De Luca in redazione, Pietro Lacorte in regia, Andrea Zorzi è un uomo di parola, me l'aveva promesso una settimana fa e oggi è qui. Ciao Andrea. Ciao, ben ritrovato. E quindi riparto col mio abituale compagno di viaggio o di battaglia, perché oggi non sarà facile magari dialogare con il popolo del rugby. Vale la pena partire però in una giornata che dispone a tantissimo di tutti i colori e è molto intrigante, che si concluderà con quella che pomposamente viene chiamata partita scudetto, che poi partita scudetto il 25 di febbraio naturalmente non può essere, però Milan-Juventus è comunque una partita importante. Questa giornata si è aperta con una tragedia e per dovere di cronaca vale la pena ricordarla, perché c'è la Superbike in Australia, prima prova del campionato nazionale Superstock 600, incidente ed è morto un pilota di 17 anni, si chiamava Oscar McIntyre, in seguito alle lesioni riportate una dinamica simile a quella che ha portato alla morte di Simoncelli. La giornata si è aperta così con il nero, con questa lista nera, e poi ci sono i colori. Sì, e poi torniamo ancora una volta a toccare questo tema complicato di come si fa a ripartire, se sia giusto, di show must go e via dicendo. È vero che in questo caso, per ragioni non ben comprensibili, riteniamo che la morte di un giovane ragazzo sia un po' meno coinvolgente, forse perché non è italiano e questa è una buona ragione, non c'è dubbio però che è un aspetto sul quale forse dovremmo un po' riflettere. L'abbiamo fatto, è fatica trovare una soluzione, ma quando si parla di sport e mettersi in mezzo alla morte è piuttosto complicato. Molto complicato. C'è anche invece un messaggio che leggo subito: grande Ital Rugby, ennesima sconfitta a testa alta, mi sembra abbastanza ironico. Poi parlano di male di Ranieri, che ne ha perse 5 e poi sentiamo anche quindi è un tifoso di calcio che ha usato un linguaggio che talvolta usano i tifosi di rugby. 8-0-0-24-0-0-24, in realtà io ho trovato poco di onorevole in realtà nella sconfitta. L'Irlanda è più forte, si sapeva, il rugby è uno sport in cui il più forte vince, però 42-10 a Dublino mi sembra tanta roba. L'Italia ha giocato un ottimo primo tempo, o quantomeno 38 minuti del primo tempo, era 10 pari e poi si è completamente sfaldata nella ripresa. Tre partite, tre sconfitte, una quasi vittoria con l'Inghilterra, bilancio che continua ad essere in rosso e insomma adesso l'obiettivo sembra quello di tornare alla sconfitta onorevole. Dunque io ricordo, credo fosse esattamente un mese fa, quando si parlava un po' delle aspettative in questo Sei Nazioni, si diceva che si poteva mirare in alto, si diceva che la partita con l'Inghilterra giocata all'Olimpico poteva essere una grande opportunità. Forse adesso quello che l'Italia sta facendo è invece quello che per davvero poteva aspettarsi, e forse vale la pena di pensare un po' se fosse corretto, se fosse giusto alzare così tanto il tiro. È vero che le dichiarazioni a inizio di un torneo sono sempre piuttosto frequenti, sì. Però mi pare che, anche perché c'è un cliché, e cioè un'Italia che gioca con molta motivazione, ci mancherebbe altro, con un buon risultato nel primo tempo e poi viene fuori la forza fisica ma soprattutto la tecnica. Mi pare, però poi chiederemo l'opinione di chi se ne intende molto di più, che quando abbiamo la palla in mano facciamo molta fatica. Per noi è veramente sembra cosparsa di sapone o di bagnoschiuma, mentre per gli altri è un altro discorso. E chiediamolo subito a Giacomo Bagnasco, che è proprio a Dublino e ha visto questa partita, testimone oculare in diretta. Ciao Giacomo. Oculare, un po' sconsolato, buon pomeriggio. Onorevole o no? Sì. Oggi mi sembra non tantissimo. No. Direi di no, anche perché comunque questo problema che ha sottolineato Andrea del secondo tempo con relativo crollo più o meno evidente, insomma non accenna a diminuire come problema, anzi in un certo senso aumenta. Può essere che ci sia un dispendio di energie maggiori, perché la squadra si sta prendendo più rischi, cerca di migliorare la fase offensiva e si stanca di più, può soffrire di più in difesa, però insomma vuol dire che la coperta è comunque troppo corta. L'unico aspetto positivo possiamo vederlo nella meta segnata da Parisse nel primo tempo, e ricordo che se il 42-10 finale è pesante, il 17-10 del primo tempo era tutto sommato accettabile. Sì, certamente. È stata una meta bella, ma soprattutto è venuta al termine di 10 minuti di pressione degli azzurri, che in quel caso hanno giocato piuttosto bene, hanno messo in difficoltà costantemente gli irlandesi. Sì. In questo breve periodo di tempo si è visto qualcosa di più rispetto al passato, però ripeto, poi lo spiaga magari con una tenuta che invece risulta diminuita, una tenuta che si blocca all'ora di gioco, ecco, sì. Perché in sostanza l'Italia all'ora dura di poco, gioco il punteggio certo, era ancora 23-10. Certo, il fatto certo. È che questi sono stati più bravi, anche più bravi degli inglesi, sono una squadra sicuramente più forte, più creativa, sono riusciti a mandarci fuori giri e alla fine, se sei mesi fa la Coppa del Mondo con l'Irlanda era finita 36-6, ovviamente sempre per loro, stavolta è finita 42-10. Sì. Quindi abbiamo 32 punti di scarto anziché sì. 30 e abbiamo una meta che allora non avevamo segnato. Ma sì. Insomma, sono non sono grandissime consolazioni. Sentiamo insieme Brunella subito dopo la gara che, ricordo, si è conclusa da poco, insomma. Sentiamo. Prendiamo questa meta nelle ultime minuti, ma sulla seconda parte le irlandesi hanno stato più veloce, più forte sulle sfide, abbiamo perso molte sfide e la nostra difesa sta in difficoltà molte volte. Così Brunel dopo la gara. Andrea, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, un'informazione che chiedo a Bagnasco legato al fatto, io credo che il controllo di palla in attacco sia un po' quella parte del gioco che è caratterizzata dal talento, dal controllo della pallavolo, si parla di controllo di palla. Immagino che nel calcio siano i piedi buoni ed è su questo aspetto che mi piacerebbe avere l'opinione di Bagnasco per sapere se c'è qualche miglioramento, dato per scontato che forse la tenuta fisica potrebbe migliorare anche in tempi abbastanza veloci, invece il controllo di palla è qualcosa di un po' più complicato sul quale intervenire. Sì, indubbiamente è una squadra che sotto questo punto di vista non è all'altezza delle altre, però dobbiamo anche ricordare sotto questo punto di vista che con il precedente CT Nick Mallett c'era una scelta chiara, che era quella di curare tantissimo la difesa, di distruggere e il gioco avversario, certo, di distruggere il gioco avversario e di puntare sui calci, sì. Adesso si cerca di cambiare, di trovare un gioco più equilibrato tra attacco e difesa, tra mischia e tre quarti e così via. Quindi sotto questo punto di vista la volontà c'è, qualcosa si vede, però è un cammino che è appena cominciato. Certamente. E non ci sono neanche i giocatori, si tratta di crearli, costruirli. Barton oggi ha fatto alcune cose bellissime, come ad esempio il passaggio che ha portato alla meta di Parisse, molto bella per la verità, non è un calciatore e abbiamo avuto l'ennesima conferma, questo per noi è fondamentale, dunque la coperta è cortissima. Parlavi di Bottes e sicuramente Bottes. La coperta è corta, sono perfettamente d'accordo con te, non ha difeso sempre bene, nei calci insomma 2 su 5 per lui, 7 su 8 per Sexton. Questo dice tutto, sì. Sicuramente in attacco velocizza un po' la manovra e quando ha lanciato Parisse ha fatto un bel numero, ha fatto una grande cosa. Grazie Giacomo, buon lavoro lì da Dublino. Grazie a voi, buona giornata. Grazie Giacomo Bagnasco. C'è anche Domenico da Milano che vuole intervenire, ma lo farà dopo il traffico. Chi vince Milan Juventus? Andrea Zorzi. Pareggione, che dici? Pareggione, cioè, mi hai rubato l'idea, insomma. Anche secondo me pareggione, tra l'altro ci sono grandi novità di formazione, poi ne parleremo a lungo, grandi novità di formazione soprattutto nella Juventus, perché Conte evidentemente nella notte, forse non è la notte, ma manovra studiata, ha cambiato diverse cose, compreso tutto l'attacco rispetto a quello previsto, che doveva essere Matri, Vucinic, e invece a quanto pare sarà Borriello, Quagliarella, con Estigarribia preferito a Pepe sulla sinistra. Intanto continua la farsa Lazio, c'era una conferenza stampa indetta per le 17, posticipata alle 17.30, la cosa che non è chiara è che non si sa chi si presenterà in veste di allenatore della Lazio a fare questa conferenza stampa. Mi sembra la situazione più assurda della storia degli ultimi 8.000 anni dello sport, veramente una cosa, no, che fa anche ridere volendo, perché oggi Rea ha diretto l'allenamento, ha detto no, tutto a posto, c'era Zola in aereo per andare a parlare con Lotito, e c'è questa conferenza stampa e non si sa chi è, chi si presenta nelle vesti di allenatore della Lazio il giorno prima della partita, una cosa incredibile. È così che si crea l'evento, sì, con sì. La curiosità. Grande, si vede che non so, hanno imparato dagli americani, cosa dici? La sera dell'Oscar, o la sera dell'Oscar, la Lazio fa il suo. Ah, perché a proposito della Lazio, dunque l'agenzia Lanza delle 15.06 è Gianfranco Zola arrivato a Roma e da quanto si apprende sarebbe già a colloquio con il presidente della Lazio, Claudio Lotito, per valutare appunto la proposta della società biancoceleste. Il dimissionario Rea si trova invece a Formelle ed è in attesa di capire se dovrà guidare o meno l'allenamento di oggi posticipato alle 15.30. Ok, questa è l'agenzia delle 15.06. Agenzia delle 15.52, prosegue la telenovela Lazio relativa all'allenatore. Nel pomeriggio infatti Edi Rea è sceso in campo a Formello per dirigere l'allenamento in vista della partita di domani con la Fiorentina. C'era in programma la conferenza stampa alle 17, è stata posticipata alle 17.30. È così, è un po' un reality. No, ma che poi, voglio dire, a un marziano che sa poco di calcio, legge la classifica, Lazio terzo in classifica insieme all'Udinese a 42 punti, legge l'organico, insomma non conosce bene le dinamiche, le situazioni romane e dice boh, questi sono tutti matti, ma forse ha ragione lui, ha ragione, sì, il marziano. Mi sa che il marziano stavolta si è beccato. Sentiamo gli ascoltatori. Domenico, Milano, poi Emanuele da Milano. Domenico, buonasera. Sì, pronto, buonasera. Pronto, buonasera. Per premetto, io sono appassionato di rugby, quindi questa cosa che dico non vuole essere una provocazione. Questo torneo si chiamava una volta Cinque Nazioni, non so se vi ricordate. Sì. E ora si chiama Sei Nazioni, ma noi siamo certi che il nostro livello tecnico, il nostro movimento meriti di partecipare, meriti che questo torneo da Cinque Nazioni sia diventato Sei Nazioni, perché, solo questo. Perché la chiama provocazione? No, perché potrebbe essere, per chi magari non è, secondo me non la è, purtroppo no, è una non lo è, non lo è, ma io ed Andrea, insomma, abbiamo a lungo parlato nelle passate edizioni, perché tanto il tema era sempre quello, abbiamo a lungo parlato della, insomma, dell'opportunità di vedere un torneo che ha una grande storia, che ha una enorme tradizione, che muove molti interessi, e che qui si partecipa per diritto, non divino, però per consuetudine, per regolamento. Non c'è una mobilità all'interno di questo torneo. Io troverei più giusto, da un punto di vista sportivo, che ci fosse una possibilità di mobilità all'interno di un torneo così importante. Retrocessione, spareggio. Sì, credo che ci abbiano spiegato che loro non pensano, gli organizzatori anglosassoni, alla retrocessione, perché correrebbero il rischio di vedere alcune squadre loro uscire dal 5 o 6 nazioni. È vero anche che ci sono altri esempi, l'NBA non è un campionato nel quale ci sono retrocessioni, quindi esistono anche modelli diversi. Io credo che noi italiani siamo molto abituati tradizionalmente ad avere che chi arriva primo in alto vince, sì, e chi è l'ultimo scende e poi ci prova a tornare indietro, che dal punto di vista della competizione è anche molto stimolante. Ah, certo. È vero che quando c'è un equilibrio da mantenere per quanto riguarda aspetti economici, di marketing e anche tradizione, qualche volta si forza, però questo sì, porta... però non è mai uno stimolo a migliorare, cioè tu sai che comunque sei lì a prescindere, quindi io condivido per la mentalità italiana, cioè per noi è inconcepibile un campionato, un torneo senza promozione e retrocessione. Hai ragione, però il Tri Nation è fatto da quelle tre squadre, sì, sì. Il Sei Nazioni è fatto da quelle, quindi il rugby effettivamente ha fatto alcune scelte in cui il parametro principale non è legato al valore, tra l'altro poi lì dentro ci sono le squadre più forti, ma è legato al fatto che tradizionalmente quelle partecipano. È legittimo, ci mancherebbe, sì, è sì. Chiaro che per l'Italia la domanda è più che corretta: non sarebbe forse più utile correre il rischio qualche volta che se arrivi ultimo esci? Se ne è parlato, è vero che Sei Nazioni ha però dato in Italia al rugby quella spinta che lo ha fatto diventare uno sport popolarissimo. Lo ha fatto diventare uno sport popolarissimo. Ricordiamo che lo stadio, che l'Olimpico, sarà esaurito per il match, il solito match della Speranza contro la Scozia, che è l'unico competitor disponibile per la nazionale italiana. È vero che c'è un sottobosco, c'è un movimento giovanile che grazie a Sei Nazioni, probabilmente perché è così, si è popolato in maniera incredibile, e questo certamente nel tempo darà dei frutti, però i dati sono quelli che parlano di continue sconfitte. Continuiamo a parlare con gli ascoltatori. Emanuele da Milano, poi Massimo da Lecco. 800 24 00 24, in attesa di capire chi è l'allenatore della Lazio. In questo momento non lo sappiamo. Emanuele, dica. Buonasera. Allora, per prima cosa, io mi sento un po' pure alieno, no? Come diceva lei, sì. Perché queste situazioni di player, cioè devo dire, situazioni come queste mi fanno un poco vergognare di essere un tifoso di calcio, perché... Ma perché? Vergognare perché... Sì, no, però vedere certe situazioni in cui cioè il modo in cui hanno i tifosi... l'ambiente, no? Io che trovo insopportabile, non parlo di vergogna, però parlo di intolleranza. Di essere accomunato magari a certe persone come tifoso, no? No, quello che io parlo di intolleranza nei confronti del peso che le tifoserie hanno sulle società, sulle decisioni delle società, esatto. Sul protagonismo delle tifoserie sul gioco del pallone, questo lo trovo, è la cosa che mi dà più fastidio in assoluto, lo confesso, nel guardare il mondo del calcio. Andrea Zorzi mi guarda e sorride. No, guardo perché ho avuto occasione di confrontarmi con atleti che fanno parte del mondo del calcio, e a me risultava veramente stranissimo il potere che hanno i tifosi. Ed è un potere che viene concesso in parte anche dalle società, ma è qualcosa che loro danno per scontato, e quindi il fatto di stimolare, ed è un eufemismo, a dare il loro massimo, a dire non siete degni di portare questa maglietta, guardate che se uscite e noi vi vediamo fuori alla sera ve la facciamo pagare, sì. Sono atteggiamenti che i tifosi ritengono essere volti al bene della squadra, alla prestazione. Io tenderei a pensare invece ma a te che... è successo di scontrarti con tifosi della tua squadra? L'unico esempio in vita mia è accaduto a Milano, quando alcuni tifosi non della pallavolo ma del mondo più ampio erano venuti alla partita, e ricordo che alla fine ho avuto qualche battibecco con i miei tifosi. È stato un caso isolato, e nella pallavolo accade anche che in alcune occasioni specifiche, talvolta quelle molto importanti, c'è una presenza di tifosi che sono magari abituati ad altre modalità, e lì si nota la differenza. Poi lo sfottò, ci mancherebbe altro, ed è notevolissimo, però c'è proprio una tipologia, una sorta di biologia del tifoso che è diversa tra le varie discipline. Sì, Massimo Lecco, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Sempre complimenti per la trasmissione, non sono di maniera. Grazie. Io avevo telefonato volendo parlare della partita di stasera, poi sì. Ho sentito i vostri ultimi commenti e dirotto su un'altra cosa. Ma non ci dica, sei un pareggione anche per lei. No, ma parli anche della partita di stasera, perché insomma, grazie. Stiamo aspettando non solo le decisioni di Lotito, ma soprattutto direi Milan Juventus. C'è chi l'aspetta da stamattina in diretta. Sì, ecco, cioè, infatti, la maratona di... Da mezzogiorno a mezzanotte. Mamma mia. Però, io sono... tagliarsi le vene, Da tagliarsi le vene, premetto sì. Che sono tifoso di una squadra, per cui devo dire che tutta questa attenzione mediatica non... Quale squadra? Ma io sono tifoso del Toro, per cui per me questa sera l'importante è che entri la palla nella porta di Buffon. Poi sì, certamente. Scusate il mio sfogo. Ma che sfogo? Ma cosa guardi si che l'extraterrestre... Continuate a scusarvi. Attenzione, l'extraterrestre deve capire però che Buffon è il portiere della Juventus, che lei tifa Torino e che quindi sta tifando contro la Juventus e non a favore del Torino. Questo a beneficio dell'extraterrestre che ci sta ascoltando e sta aspettando il destino di Reia. Dica Massimo, dica. Assolutamente, viva gli extraterrestri. Comunque... visto che lo siamo un po' anche noi, no? Io volevo fare una considerazione di questo tipo, da tifoso anche di curva per tanti anni, oggi con qualche annetto in più. Rivendico una cosa, pur riconoscendo il fatto che le tifoserie devono comunque rimanere sempre in ambiti di civiltà, il fatto che troppe volte queste tifoserie non sono rispettate in quello che è il loro attaccamento fortissimo alla squadra. Perché? Vorrei parlare della mia squadra, ma posso parlare anche di tante altre. Ritengo che non ma ci che, sia... Che cosa, si, che cosa intenderei per rispetto? Ma il rispetto è non prendere magari Pasquato in comproprietà per 4 mesi, tanto per rimanere in un solco che mi è caro. Cioè io credo che sia completamente inutile. Ventura sta facendo un grandissimo lavoro, noi siamo contenti di quello che sta facendo, non ci interessa la mezza punta della Juve per 4 mesi. E poi un'altra considerazione ancora legata al mondo del calcio in genere. Una cosa che non sopporto io, dottor Genta, i giornalisti che sono troppo compiacenti, e mi riferisco a un emittente in particolare che si chiama Sky, con le società, non si può più vedere, scusate, non si possono più vedere interviste di maniera come quelle che vediamo, dove ci sono dei giornalisti che stanno 24 ore a Milanello e che quando fanno una domanda è la domanda più scontata e banale che ci sia sulla faccia della terra. Torniamo a parlare un po' di calcio, per favore. Massimo, ti racconto una sola cosa piccola che forse fa capire perché talvolta i giornalisti e le testate debbono essere un po' compiacenti. Se per caso tu dici qualcosa che non piace alla società, la società non ti dà più nessuna intervista in esclusiva, non ti fa entrare a Milanello o ad Appiano Gentile o dove si allenano, hanno un potere incredibile adesso e quindi il giornalista stesso è in qualche modo costretto a muoversi all'interno di uno spazio che la società ha decidere. Questo è un limite gravissimo per fare bene il giornalista. Ma perché c'è questo meccanismo perverso per cui Sky versa un sacco di... cioè il calcio è suo, no? Carlo, in alcuni casi i giornalisti italiani devono chiedere a inviati stranieri di fare le domande scomode perché la squadra non va a rompere le scatole ad Al Jazeera Sport o a chissà quale giornale, e quello è libero di fare una domanda che sia quella scomoda, che travolta è quella che la gente vuole sapere. Ma se tu la fai, il giorno dopo non entri nello spogliatoio, non entri nel campo d'allenamento. Questo quindi... lasciando stare la polemica Allegri Mediaset. Lasciando stare. Quindi lasciando stare. Io sono d'accordo che è un meccanismo perverso, sono d'accordo con te, ma poi io trovo sia anche, insomma, mi interrogo sull'opportunità di avere dei colleghi che seguono stabilmente una realtà, perché finiscono per essere estremamente coinvolti in questa realtà. Questo però appartiene a un'altra modalità. Ci siamo abituati negli ultimi anni a sapere che questo giocatore è arrivato, questo sta per arrivare, quell'altro l'ho visto, sono diventate notizie di una, come dire, superficialità per alcuni aspetti, ma è un flusso continuo di informazioni, quindi la sola presenza costante nel campo d'allenamento permette ai giornalisti di avere queste informazioni. Io ripeto, trovo che l'extraterrestre si sorprenda se gli dici si è aperto il cancello ed è arrivato questo giocatore, non è una grande notizia, però ormai il flusso continuo delle televisioni di news vivono di questo, certo. Vivono della contemporaneità. Mi piacerebbe che mi chiamasse l'extraterrestre all'800240024 per spiegarmi se gli interessa questa notizia, se questa può essere una notizia, cioè se queste notizie hanno davvero un peso o spostano davvero qualcosa o hanno una valenza. C'è un effetto, si chiamano le notizie della borsa. Se tu non senti la data riferita alla borsa, te le possono far ascoltare oggi, domani, dopodomani, e tu a fatica sai se sono vere, se sono registrate, quando appartengono. Lo stesso dicasi, se non c'è un riferimento specifico, di moltissime notizie legate allo sport. Caro extraterrestre che sei in ascolto da lassù, dovrai aspettare ancora un po'. La conferenza stampa in casa Lazio alla vigilia del match di domani sera contro la Fiorentina, inizialmente fissata per le 17:30 di questo pomeriggio, subirà un posticipo non ancora definito ufficialmente dalla società biancoceleste. L'allenamento è invece regolarmente finito agli ordini del tecnico dimissionario Edi Rea, che a questo punto non dovrebbe però presentarsi nella consueta conferenza stampa di vigilia del turno di campionato. Questa situazione lascia dunque aperta la possibilità che durante l'incontro con i giornalisti possa essere già presentato il nuovo allenatore della Lazio. In pole resta Gianfranco Zola, De Canio sarebbe in stand-by, Zola che è ancora a colloquio con il presidente della Lazio Claudio Lotito. Allora, al di là dell'interesse al posticipo, c'è un po' un aereo, 10 minuti di ritardo, controllo tecnico. No, mi sorprende un po' che l'allenatore dimissionario venga ancora coinvolto. Di solito accade che il secondo allenatore o lo staff tecnico disponibile si occupa di questo interregno tra le dimissioni e il nuovo allenatore, però è strano, evidentemente lo fanno perché o è una presa di posizione di Lotito, che vuole, come dire, far vedere, far valere il suo potere nei confronti del suo allenatore Reia fino a quando lui decide, o forse è lo stesso Reia che preferisce, come dire, chiudere in modo corretto la relazione. Non ho idea, però mi sorprende, sì, questo non mi è molto chiaro quale sia la ragione. Ma poi alla vigilia di una partita, perché sai, di solito comunque è stata una settimana estremamente travagliata per la Lazio, queste dimissioni prima della partenza per Madrid, poi è tornato, ha fatto allenamento eccetera, adesso siamo alla vigilia di una partita di campionato e non si sa domani chi va in panchina nella Lazio. L'esonero arriva il giorno dopo la partita in genere. Sì, esonero, poi sono dimissioni che non sono state, insomma, dimissioni irrevocabili. C'è stato tutto questo balletto così. C'è chi dice, pensa Andrea, ho sentito anche questa, ma facendo anche i numeri che possono avere una loro logica, che non avere Ibrahimovic, parentesi, altro argomento della settimana, confermata, viva Dio, la squalifica di 3 giornate a Zlatan Ibrahimovic, ma credo che l'unico in Italia a non essere d'accordo su questo sia probabilmente per interessi di partito Adriano Galliani, perché mi è sembrata una sanzione assolutamente legittima quella adottata dal giudice sportivo. C'è stato questo gioco politico, ovviamente atteso, perché viviamo, caro extraterrestre che ci ascolti da lassù in questo paese, confermate 3 giornate di squalifica, se no viene giù il mondo. Già non mi aspetto un grande clima all'interno dello stadio questa sera. C'è chi dice, no, dicevo prima di Pietro da Napoli, che sentiamo cosa vorrà dire, che per il Milan non avere un giocatore non cambia nulla. No, è meglio non avere Ibrahimovic. Ci sono stati anche fatti dei numeri, il Milan non ce li ho sotto mano, ma mi importano abbastanza poco. Non avere il tuo miglior giocatore può essere un vantaggio. Sono ragionamenti successivi. Primo passaggio, c'è Ibrahimovic. Ah. Visto che non c'è, invece di subirlo come un ostacolo, prova a rimotivarti e a rimotivare l'intera squadra per fare quello che Ibra non può fare. Sì. La domanda è, se tu potessi disporre di tutti, lo faresti giocare o no Ibra? A questa risposta non si può rispondere che sì, certo che posso. Ma visto che non c'è, non è detto che, come dire, si tolga il valore aggiunto di Ibra, che quindi il Milan debba necessariamente giocare peggio perché manca colui che comunque è protagonista. Sì, è comunque un giocatore chiaramente condizionante, chiaramente modella la squadra, che chiaramente però Carlo non esige, credo, certe cose. Non credo tu voglia difendere l'idea che il valore di una squadra è la somma dei singoli valori. No. Dopodiché ci sono alcuni giocatori per davvero, e Ibra è tra questi forse il migliore, che ha cambiato le sorti di molte squadre. Dopodiché sappiamo che il valore finale, la prestazione, non è la somma aritmetica dei singoli valori, che tra l'altro non sono stabili e via dicendo. Poi c'è sempre il solito discorso che nelle partite decisive è stato meno decisivo che nelle partite contro altre squadre, cioè questo però è un discorso talmente vecchio. Però mi sembra bislacco dire che è un vantaggio per il Milan il fatto che nella partita, una partita così importante. No, però, ascolta, se ti chiedono, non c'è Ibrahimovic, che è il giocatore più forte. Il Milan della perde squadra. Sicuro? No, ti dico di no. Se tu sei anche Conte, ti chiedono, sì, ma è un vantaggio o no? Dici, a me questa cosa non è né un vantaggio né uno svantaggio. Poi in cuor tuo potrai pensare, ma sei quasi quasi, sono contento che non ci sia, ma in ogni caso, siccome devi ancora giocare la partita, sì, ti preoccupi. Ti preoccupi, però anche da un punto di vista tecnico-tattico, io credo che chi giocherà al centro di difesa della Juventus stasera entrerà in campo con un sorrisetto. Ci fosse stato Ibrahimovic, sarebbe stato un pelo più preoccupato. Questo è un corollario. Anche lì, un discorso è chi toglieresti agli avversari. Sì. A quel punto togli Ibra. Sì. Visto che comunque non c'è, l'idea è quello non esiste, non è un problema. Adesso pensiamo alla partita che è ancora da giocare e via dicendo. Quindi. Pietro da Napoli, Nicola da Vicenza. Buonasera Pietro. Buonasera, salve. Io, diciamo, pur venendo a Napoli, sono un tifoso della Lazio. Sì. E volevo, diciamo, esprimere la mia opinione riguardo alla situazione di Reia, perché più che, diciamo, ecco, una protesta nei confronti della tifoseria, secondo me il vero problema è che la società ha perso totalmente il controllo della realtà, diciamo. Perché un presidente che vuole fare così, diciamo, la parte forte, io caccio, io prendo, io faccio. Qual è la realtà? Secondo me, vedi, la realtà è che la società ha fallito nel mercato di gennaio, a mio personalissimo avviso, sì. E che Peia si è purtroppo trovato a fare i conti, diciamo, con una situazione di totale emergenza in questi primi mesi. Allora è vero che la Lazio perde 5-1 a Palermo, è verissimo che la Lazio esce dall'Europa League, ma è altrettanto vero che la Lazio è terza in classifica con 42 punti, e esatto. Io sfido qualunque tifoso della Lazio a dirmi che non avrebbe messo la firma il 25 di febbraio ad essere terzo in classifica, no, con 42 punti. Io sono perfettamente d'accordo, ma il problema secondo me è un altro. Il problema è che appunto essere terzo in un campionato come quello italiano non è per niente facile. E diciamo, ecco, che l'ambiente Lazio appunto non è estremamente soddisfatto di una campagna come quella di Lotito, che punta più, diciamo, più che a un progetto vero, ovvero con, diciamo, un terzo posto, punta appunto, diciamo, come dire, a farsi vedere, a fare Pietro, nomi. Però Pietro, così sembra che non siete mai contenti. Cioè, l'idea è che si chiede sempre qualcosa che non c'è. Gli si chiede di stare davanti alla Roma, di essere terzi, e siete terzi, e via dicendo, c'è sempre qualcosa che giustifica il fatto che non siete contenti. Va mai bene. No, ma io capisco, però il problema è questo: quanto potrà durare questa situazione di terzi? Ma secondo lei adesso cambiando allenatore, facendo tutto sto casino, durerà di più? Secondo io me. Non sono affatto d'accordo con la politica della società, che è quella di cambiare allenatore. Io quello che mi chiedevo è, cioè, quando si vede non ci dovrebbe essere dei cambi all'interno della società? Cioè, più che cambiare allenatore, non si dovrebbe cambiare DS? Ma guardi, io ho anche un messaggio che è, diciamo, questo: non sappiamo chi è l'allenatore, che bello se non sapessimo chi è il presidente, lo scrive tale Andrea. 800 24 00 24. È anche vero che molto spesso ai presidenti italiani, da Moratti in giù in su, da Berlusconi in giù in su, piace giocare con il loro giocattolino in maniera anche misteriosa, No, sì, no, mi sorprende un po', perché effettivamente non credo che, io non sono un grande tifoso, non credo che Lotito sia particolarmente simpatico, però è vero che in qualche modo ha dato un'identità a questa Lazio. Certo. Si sta muovendo con cose buone, cose meno buone, campagne più o meno efficaci, però ripeto, l'extraterrestre dice: oh, io questi qua li vedo terzi in classifica, dovrebbero essere più contenti di quanto invece la condizione dimostri. Sì, non trovo le T di cui sopra, non trovo una spiegazione logica, ma perché una spiegazione logica di fatto non c'è. Nicola, Vicenza. Sì, salve, sono un tifoso del Milan, sì. E volevo dire la mia opinione sul discorso della presenza o meno di Ibrahimovic in campo. Sì. E secondo me il Milan da queste tre giornate a questa parte ha giocato da squadra. È vero, il peso di Ibrahimovic davanti si farà sentire, però secondo me contro una squadra vera come la Juventus il Milan senza Ibrahimovic può dare più sfogo, più importanza al collettivo, e secondo me giocare più da squadra, diciamo, ecco. Mi è tornato in mente, perdona se ti interrompo Nicola, una discussione fatta credo l'anno scorso con Callegari, nel quale si paragonavano le prestazioni di Ibrahimovic a livello nazionale e internazionale. Si diceva: se a livello italiano Ibra da solo, pur non creando spirito di squadra, è decisivo, questo non avviene con squadre più compatte, più organizzate a livello europeo. In questo senso, allora, è vero che forse Ibra risulterà ancora decisivo a livello nazionale, però non credo sia quell'enzima o quel catalizzatore. Ma che dà inizio. Ho visto l'altra sera contro l'Arsenal, mi sembra che abbia giocato una discreta partita, Nicola? Non sono d'accordo, infatti. Ha giocato una discreta partita in volontà di finale, insomma. Dai. Infatti, secondo me, come sono le squadre compatte, poi è anche vero quando manca la superstar, è verissimo, tutti danno qualcosina in più, tutti si sentono più motivati, ma questi sono discorsi corretti, sono discorsi sportivi. Però se qualcuno mi dice è meglio non avere Ibrahimovic a partita contro la Juventus, io dico vabbè, allora appendo la cuffia al chiodo e lascio andare a Zorzi. Io infatti non sarei così drastico come sei te. 8-0 come sempre, ma meno male, per questo che andiamo. Tra l'altro, poi più volte ti ho sentito dire anche il fatto che non possiamo fare affidamento solo sulle prestazioni di un singolo, no, soprattutto quando dubbio, questo singolo non c'è dubbio su questo, non può essere considerato l'esempio migliore. Guarda, di c'è un nostro amico in linea, abbiamo il traffico e poi lo sentiamo, Marco Nosotti, ciao, ti teniamo giusto un attimo. Buonasera a tutti, ciao. C'è ciao. Il tuo amico Zoro che ti deve chiedere una cosa. Come ti trovi in mezzo a questa lunga infinita diretta prepartita? Per me sempre una diretta. Da quanto sei lì? Guarda, oggi mi è andata bene perché grazie al grande impegno editoriale di Sky siamo in tanti e quindi ci siamo divisi i compiti. Io ieri sera sono rimasta fino a tardi a Milanello per cercare di capire qualcosa. Come al solito non ci capisco niente, però grazie a Dio mi tengono. E niente, qui siamo da stamattina, ma sai quanti ce n'è che lavorano dietro? Io sono qui adesso a San Siro, si sta benissimo, un po' di umidità, ma oggi sono 20 gradi lì fuori. Sai come hanno fatto? Io lo so come avete fatto voi questo piano qua, si sono messi in ufficio con il risico, sotto c'era la mappa di San Siro, invece dei carri armati i soldati, allora, questo lo metto qua, questo lo metto da, compro sette giornalisti, vieni qua, e questo lo mettiamo a fondo campo. Qui ce n'è un bel po', perché saremo un'ottantina fra giornalisti, produttori e tecnici, ci sono stati 34 telecamere, 14 per l'HD, 14 per il 3D, attenzione. Ma ci stanno gli spettatori? Ci stanno gli spettatori? Gli spettatori ci stanno. Sì, sono un gioco carino, perché stanno aprendo adesso i cancelli. Noso, io attacco la camciaccia, perché voi siete... qui attacchiamo Milan Juventus, la attacchiamo bene. Vediamo Marco, sì. A chi dice che è un vantaggio per il Milan non avere Ibrahimovic, tu cosa rispondi? Cosa ha bevuto? Cioè, voglio dire... vedi che la pensa come me. No, con tutto il rispetto. Allora, qui sono due squadre che giocano bene a calcio, interpretano bene, sono divertenti, queste squadre sono forti. Soprattutto la Juve mi è piaciuta, come Conte ha cambiato il suo modo di pensare il calcio, ha sfruttato i giocatori, ne ha fatto una grande squadra. Attorno a Pirlo un gruppo è diventato una squadra, è un vecchio slogan, Zorro lo sa, però è così. E il Milan oggi gliene manca sempre, adesso manca, non c'è neanche Nesta, gioca Mexes, mi sbaccia la febbre, Bonera un problema un polpaccio, io non mi sento benissimo, non c'entra niente, però Ibra ti porta via l'imprevedibilità, la forza, il genio, ma anche tanto lavoro, quanti centimetri in difesa, certo. Ovviamente poi diranno gli altri, libera la mente, no? Liberi di, dicono a Sky, questi dicono, libera la mente di Pato, e qualcun altro potrebbe infierire su questo fatto, però lasciamo per lì, il Pato si sente libero, non lo so, certo, quando manca uno di quelli buoni, la responsabilità forse è maggiore, ti responsabilizza ulteriormente, però Ibra. Marco, vero, per chiudere, mi confermi che gioca Estigarribia e non Pepe, che giocano Quagliarella e Borriello davanti? Quagliarella e Borriello davanti te lo confermo, questo è appena arrivato. Per Estigarribia attendevo la conferma dal mio collega. Ecco, un attimo, guarda, c'è proprio qui il mio collega, Giovanni, guarda là. Estigarribia gioca, vero? Estigarribia gioca, guarda, l'ho dato in diretta, perfetto. Il Milan, l'unico dubbio era Mexes e Nesta, nessuno dei due sta bene. Ieri Mexes non ha lavorato a parte, Nesta invece ha fatto tutta la rifinitura, stamattina sgambatina, li ha guardati negli occhi e ha detto Nesta sta giù e gioca Mexes. Altrimenti tocca a te, scaldati. Noso, mi ricordi quante partite mancano al fine del campionato? Tante. Bel po', tante, perché siamo alla 26esima, questa 25esima, adesso mi perdo. Una quindicina credo ne manchino, giusto? Sì, mancano 81 punti con i 3 di oggi, quindi tutto può accadere. Ma se però per caso alla quintultima, se alla quintultima di campionato ci fosse uno scontro decisivo, cosa trasferiamo? Gli studi di Sky direttamente dentro a San Siro? Sì. No, c'è una botola che stanno preparando adesso e si esce di lì, no? Come gli annaffiatoi, no? No, qui stanno lavorando, no, i studi di Sky stanno lavorando bene, ovvio, questa è la partita, che ne dica, ma non è decisiva, no, questo conta, chi perde si lecca le ferite per un po'. Questo è sicuro. Marco, grazie come sempre un piacere, okay. Grande. Ciao. Piacere mio, scusate. Grazie a Marco Nosotti, ci siamo divertiti un bel po'. Cosa dici? Quanti Zorro? Soldatini c'hanno oggi? Mamma mia. 80. Senti, per chiudere, io invece voglio farti. Dunque, fammi vedere le agenzie per capire. No, perché sto vedendo degli orossi che parlano. Ma allora tu sei un amante del telenovelas, dillo. Guarda, mi fanno impazzire. No, niente, tifoso dell'allenatore della Lazio ancora non si sa. Sono ritardo imprecisato, 17, giusto? Ritardo imprecisato, 17:51. Abbiamo ancora 5 minuti. Voglio farti sentire un paio di dichiarazioni di Mennea. Lo sentite io. Le già sentite? Però allora, li sento volentieri. Riproponiamole agli ascoltatori e poi voglio sapere cosa ne pensi. Sulle Olimpiadi Mennea ha un'idea. Adesso non siamo pronti, magari nel 2024 lo saremo. Innanzitutto devi ridurre il gigantismo. Non puoi tu a ospitare tante discipline sportive, ci sono discipline che devi toglierlo di mezzo, devi eliminarle dal circuito olimpico, perché non sono discipline educative, non hanno niente da insegnare, da proporre alla collettività, ai nostri giovani. Questi sono gli unici paesi oggi che possono assumersi l'onere olimpico, sono i paesi del Golfo, cioè paesi che hanno grandi disponibilità, grandi mezzi finanziari. L'Italia ha un debito pubblico uno dei più alti al mondo, un'economia che non va da nessuna parte, e noi stiamo a pensare ancora alle Olimpiadi. Bisogna puntare a quelle del 2000, quando è 2024. Come 24 si può fare, 24, però devi farle, devi proporti seriamente, non con quel dossier che hanno presentato, che il giardiniere di casa mia o la Colf lo faceva pure meglio. Quindi ci vuole il giardiniere di... Dunque, abbiamo espresso, almeno io, che avevo qualche perplessità sull'organizzare, la candidare Roma. I toni però di Mennea, un po', primo, discipline non educative, prive di interesse, riduciamole. È vero che sono veramente tante, che alcune discipline olimpiche sopravvivono in virtù di tradizioni, e quindi forse una sorta di aggiornamento dell'Olimpiade andrebbe fatto, ma mi è parso di capire che nel suo tono ci fosse una netta presa di posizione, di giudizio, nel dividere discipline che hanno senso e altre, non che sono meno popolari, ma che proprio non ha significato, sono diseducative, molto molto forte, e non lo condivido. Mi pare molto forte anche il fatto che questo dossier, che avrà i suoi difetti, ma non è stato fatto da un giardiniere né da una casalinga, e quindi insomma credo che il buon Mennea in questo caso abbia esagerato sicuramente nei toni nel criticare ciò che è stata la candidatura, non andare fino in fondo. Sì, non sono state uscite per l'altissima. Mi è venuto in mente, te lo dicevo prima, una specie di ex fumatore, che dopo che ha smesso è particolarmente acido nei confronti di chi fuma ancora. Fumare fa male, ma non che questo in qualche modo giustifichi un atteggiamento particolarmente ostile nei confronti di un problema. Allora, chiudo con questo messaggio. Caro Barisoni, 42-10, mi sono rotto di perdere con onore, meglio restare a casa e finirla con questo supplizio. Lo scrive Bruno Barisoni, grande appassionato di rugby, però non di solito si occupa di... Ah, pensavo che avessi confuso con Barisoni. No, ma va, cosa ti viene in mente? Vabbè, andiamo a vedere Milan-Juventus, ma soprattutto a scoprire, perché per me questo è il grande tema della giornata, chi era l'allenatore della Lazio, perché questo è... Poi magari domani cerchiamo quello dell'Inter. Guarda che così mandi in crisi l'extraterrestre. Cioè, nel giorno in cui tutto gira attorno a Milan-Juve, te mi dici che sei preoccupato per sapere chi era l'allenatore della Lazio. Perché ti confesso un segreto, voglio che mi inviti a casa sua. L'extraterrestre, certo. Grazie Andrea Zorzi. Sabato ci sei? Direi di devi sì. Guardare la gente. Esatto, bravo. Va bene. Grazie ad Andrea Zorzi, Giorgio De Luca in redazione, Pietro Lacorte in regia. Questa sera avremo Dario Ricci allo stadio a San Siro a raccontarvi nel corso dei GR Milan Juventus, anche a beneficio dell'ET che ci sta ascoltando. Buona serata a tutti.